alle 9 in punto, come ogni venerdì, torna anche oggi Pensatech. Il nostro tuffo nel digitale a 8 bit, come sentite. Ma più che guardare la tecnologia del passato, quest'oggi guardiamo decisamente al futuro. La settimana scorsa vi abbiamo parlato di Smart City, oggi ci vogliamo ritornare su. E parlarvi anche di coloro che le Smart City, speriamo, dovrebbero viverle, cioè i nativi digitali piccoli nati quando internet già esisteva. E accanto a me questa mattina anche Marco Boscolo. Buongiorno, buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori, anch'io per la prima volta di qua dall'acquario. sono posti importanti, Questa mattina parliamo di nativi digitali, insomma, che si parla di bambini è chiaro, però io lascerei a questo punto la parola al nostro Glossatech per spiegarci più nello specifico di cosa stiamo parlando questa mattina. E visto che ce l'abbiamo il nostro Glossatech, il nostro dizionario delle parole dell'innovazione e del digitale, perché non usarlo? E allora questa mattina non inflazioniamo ulteriormente la lettera S, ma partiamo dalla lettera N. N come nativi digitali. Il termine nativi digitali deriva dall'inglese digital natives, che appare per la prima volta nel 2001 in un articolo di Mark Prensky. Prensky, insegnante, scrittore ed esperto di apprendimento e tecnologie, usò queste parole per indicare quegli studenti che, a differenza dei loro predecessori, erano cresciuti con le tecnologie digitali. Secondo Prensky, i nativi digitali erano una fascia eterogenea che nel 2000 frequentavano dalla scuola materna fino al liceo. Un gruppo contraddistinto dalla grande familiarità con computer, videogames, cellulari e tutti gli altri dispositivi digitali dai quali erano circondati. Secondo Prensky, i nativi digitali pensavano e processavano le informazioni in maniera diversa rispetto agli immigrati digitali, ovvero coloro che non erano cresciuti in mezzo a tutta questa tecnologia. Prensky riteneva quindi che fosse necessario un ripensamento nel modo di insegnare che andasse incontro ai nativi digitali. Nativi digitali è diventato un termine molto popolare, anche se in ambito sociologico e pedagogico è stato invece contestato da molti. Tra le critiche, la sua vaghezza, il fatto che si basi su un criterio anagrafico, gli anni di nascita, senza tener conto delle differenze socio-economiche e del reale accesso alle tecnologie. Alcuni propongono di parlare di nativi digitali solo per i nati dopo il 2000, per coloro che davvero non trovano niente di strano nel toccare uno schermo digitale. Solo coloro che sono nati dopo il 2000, mi quindi sembra quasi una data vicinissima. Una data troppo vicina forse, anche perché forse ci dispiace che ci taglia completamente fuori di un bel po'. Noi decisamente parecchio, penso però anche i nati degli anni 90, che già ancora prima di scrivere, io ricordo mio fratello che scriveva sul codice DOS per riuscire a entrare dentro i videogiochi. E tuo fratello forse aveva altri problemi magari, che non erano quelli dell'alfabetizzazione digitale. Però è arrivato effettivamente poi a fare informatica, quindi speriamo che porti bene. Vediamo se invece è d'accordo con questa definizione del nati dopo il 2000, Francesca Sanzo, che è al telefono con noi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Francesca sì. Sanzo, ricordiamo, l'esperta di comunicazione online, blogger e mamma, e forse anche per questo questa affezione ai nativi digitali. Da tempo però conduce, ricordiamolo, corsi di alfabetizzazione digitale per bambini, ma anche per i genitori, dico bene? Sì, esatto. Sì, io devo dire che con il termine nativi digitali ho un amore e odio, un rapporto di amore e odio, perché credo che sia un po', possa essere un po' ghettizzante sia per noi che siamo un po' i tardoni, no, digitali, sia per chi invece appunto nativo digitale si sente un po' un luogo a sé. Io credo che sia importante invece collaborare tra generazioni in questo percorso, e che la nostra generazione in particolare, io ho 40 anni più o meno, abbia un ruolo molto importante, nel senso che noi comunque abbiamo visto questo cambiamento in atto, questa evoluzione anche del modo di relazionarsi grazie alla rete, e che sia fondamentale quindi per chi come me per esempio, ma anche per i genitori, imparare a gestire il cambiamento, a gestire l'alfabetizzazione, l'orientamento consapevole dei figli all'uso delle tecnologie, perché comunque i ragazzi adesso, come avete giustamente detto anche voi prima, si trovano in un ambiente in cui è naturalizzato, no, l'uso della tecnologia. Chi è nato dopo il 2000, ma anche mia figlia del 2006, ha una dimestichezza con tablet, smartphone e computer che è assolutamente naturale. Però è anche vero che questo essere naturalizzato nella loro cultura, l'uso del computer e l'uso anche di un modo diverso di relazionarsi, perché la rete comunque è stata veramente una rivoluzione culturale, può appunto dar adito poi anche a una serie di ingenuità. Noi invece abbiamo dalla nostra uno spirito critico, avendo vissuto questo cambiamento, che può essere utile. Per questo io appunto cerco sempre di propongo sempre ai genitori di affiancare i figli nell'uso dei social media, del web, cioè, quindi di imparare loro stessi ad usarli. Ecco, Francesca Sanzo, scusa, però proprio a parlare di questo rapporto intergenerazionale tra nativi digitali o presunti tali e i loro genitori, non c'è spesso anche una reazione quasi di rifiuto per genitore che si sente in qualche modo incapace di avere quelle abilità che invece il proprio figlio sembra mostrare in maniera quasi naturale? Assolutamente, c'è un rifiuto che poi nasce secondo me molto spesso dalla paura, dal non sentirsi adeguati. È la prima volta che un figlio da certi punti di vista può insegnare ai genitori qualcosa che i genitori proprio non conoscono, e questo è una cosa totalmente nuova. Questa, appunto per questo io credo che veramente invece bisogna spingere sulla relazione intergenerazionale, un po' perché comunque può essere anche un valore aggiunto il fatto che i tuoi figli ti possano insegnare come usare uno strumento in maniera un po' più smart, un po' più fluida. Dall'altra, tu dalla tua hai delle competenze che puoi invece condividere con loro, per cui io credo che sia un momento che, se noi ce lo giochiamo bene, possa essere veramente proficuo nella relazione intergenerazionale. Il problema qual è? Che i genitori spesso, proprio perché hanno paura loro, cercano di buttare addosso anche ai figli questa paura. Infatti sembra che portino anche delle paure nuove le tecnologie, anche solo il fatto che si consideri un gioco stare online, stare sui social network, così si ha paura che il ragazzo magari non studi, oppure si parla molto online quando si parla di minorenni, di cyberbullismo, come appunto internet fosse un luogo pericoloso. Come superarle queste cose? Ma allora, intanto partiamo dal presupposto che qualunque luogo può essere pericoloso o accogliente, dipende molto noi appunto dalla consapevolezza in cui lo affrontiamo. Internet è un luogo, internet è un mezzo, noi dobbiamo in qualche modo riprendere un po' la padronanza, no, del mezzo, e quindi l'unico modo per riprendere la padronanza è appunto conoscerlo. E demonizzare non va mai bene, nel senso che io sono convinta che ci siano dei grossi pericoli in rete, così come ci sono nel mondo, così come i nostri figli cerchiamo di aiutare ad affrontare i pericoli nel mondo, ma a un certo punto devono loro sviluppare un loro spirito critico per poterli contrastare, allo stesso modo dobbiamo fare con la rete. Quindi le regole assolutamente ci devono essere, i genitori devono dare delle piccole regole d'uso del web. È chiaro che adesso con gli smartphone e i tablet è un po' più difficile monitorare soprattutto il tempo in cui i figli stanno in rete. Detto questo, credo che nella maggior parte dei casi, fino a una certa età, siano i genitori che acquistano lo strumento per i figli, quindi insomma, quando viene fatto questo acquisto, sempre pensare se è commisurato ai bisogni, alle reali esigenze del ragazzo. E poi, appunto, regole, le regole devono essere delle regole che condivise da tutta la famiglia, quindi comunque io dico sempre, se un figlio vede i genitori passare tanto tempo online, è chiaro che cercherà di emularli, avere uno spirito critico anche quindi quando noi utilizziamo la rete. Per chi invece non la utilizza proprio per niente, dall'altra parte bisogna che ci si metta un attimo. Io dico sempre ai genitori che se hanno dei figli, soprattutto in età di adolescenza, dai 13 anni in poi, devono avere un profilo su Facebook, non i figli, i genitori intendo, nel senso che comunque se i figli sono su Facebook, anche noi dobbiamo capire dov'è che sono i nostri figli, e l'unico modo per farlo è usare il mezzo. E la scuola invece in questo quanto aiuta? Cosa pensi anche dell'inserimento di alcuni dispositivi come i tablet, per esempio, dentro le classi? Allora, io ne penso molto bene, perché credo che comunque lo scollamento tra mondo dell'istruzione e ciò che succede nel mondo che viviamo fuori dalla scuola sia un po' troppo grande dal punto di vista tecnologico. Molto spesso gli insegnanti sono inadeguati tanto quanto i genitori a diciamo creare una relazione, un dialogo su internet con i ragazzi. Devo dire che nel mio caso ho avuto a che fare con insegnanti invece molto che avevano molta voglia di imparare, che magari avevano già la linea in classe, la lavagna multimediale, ma spesso la usavano poco perché non la sapevano usare, però volevano in qualche modo approfittare di queste postazioni, di questi strumenti. Io credo che sia importantissimo che gli ragazzi imparino a capire che, oltre ad essere uno strumento ludico, il web può essere anche uno strumento di formazione, uno strumento di creatività, cioè credo che questo sia il vero modo per scardinare quello che è un uso magari più inconsapevole e che può portare a dei pericoli della rete. Francesca Sanzo, ne approfitto per chiederti una cosa anche sulla Smart City Exhibition. Hai fatto un commento, tu hai partecipato ovviamente a questo incontro sui nativi digitali che si è tenuto martedì, hai partecipato anche ad altri incontri. Ho visto sul tuo blog che lasci alla fine una piccola nota negativa sulla presenza femminile, dico bene? Sì, assolutamente. No, ho visto che mentre sul sito web dell'evento la maggior parte di quelli che sono stati protagonisti dell'evento, i protagonisti principali, erano uomini, diciamo che ho contato un'unica donna, e questo mi ha lasciato un po' di amarezza, anche perché poi realmente agli incontri laboratoriali che ci sono stati, in cui si parlava di cultura di genere, c'è stato un afflusso talmente elevato che molte persone, me compresa, in alcuni casi sono dovute andare via perché non c'era il posto. Questo mi ha dato anche un po' la misura di quanto fosse sottostimata la presenza femminile all'interno di una kermesse di quel genere. Io credo che una città, per essere smart, debba, sposo la definizione di Linda Serra di GGD, debba assolutamente coinvolgere le donne, se no non possiamo parlare assolutamente di smart city, e questo secondo me è uno dei punti di partenza fondamentali. Questa, la cosa della presenza femminile così ridotta nei panel della Smart City Exhibition ha colpito anche me da spettatore nei giorni dell'exhibition. Ma tu credi che questo abbia a che fare con il fatto che quello che è la Smart City e comunque la cultura digitale in genere viene comunque percepita dalle istituzioni e dal grande pubblico come qualcosa che ha a che fare con quell'ambito ingegneristico tipicamente maschile? Io credo di sì, io credo che ci sia una falsa percezione, cioè si pensi che digitale uguale maschile, e che spesso questi panel vengano organizzati con un punto di vista fortemente maschile. Io credo invece, quello che vedo nella mia quotidianità è che in realtà io mi relaziono molto spesso con donne, sono donne che si occupano per esempio della comunicazione sui social media, nelle aziende, sono donne che spesso fanno questo lavoro. Quindi in realtà quando si parla di questi temi, secondo me non coinvolgerle è un vero peccato, innanzitutto perché siamo cittadine esattamente come gli uomini, ma poi perché è sempre un punto di vista un po' al 50%, credo che entrambi i punti di vista possano portare dei vantaggi, diciamo, a questo discorso molto ampio che si sta sviluppando. Allora, Francesca Sanzo, noi per il momento ti salutiamo, ricordiamo anche i tuoi contatti su Twitter, @panzallaria, dico bene? Esattamente, grazie e complimenti per la trasmissione. Buona giornata anche a te, ciao. Ciao, ciao. Cosa ne pensate dei bambini in rete? Probabilmente anche voi avete un frugoletto digitale, ne abbiamo già parlato in passato nella seconda puntata di Pensatech. Torniamo a interrogarvi su questo tema che è molto caldo e riguarda proprio il nostro futuro e coloro che abiteranno il nostro futuro. Vi ricordo i nostri contatti, l'SMS è il 348 7649 289, la mail è diretta @radiocittadelcapo.it, ma ci potete scrivere anche via Twitter a @pensatech con la CH oppure sulla pagina Facebook di Radio Città del Capo. La pagina Facebook di Radio Città del Capo, come sempre, per tutti i vostri contatti, potete scriverci lì e noi sicuramente vi risponderemo, magari se non riusciamo a farlo in diretta perché siamo presi dalle interviste, dai migliaia di messaggi che speriamo di ricevere anche attraverso gli altri mezzi di comunicazione, comunque continuate a guardarci perché sulla pagina Facebook oppure attraverso il canale Twitter continueremo a rispondere anche nei prossimi giorni, magari anche suggerendo qualche altra lettura, qualche altro approfondimento da cercare online. Passiamo quindi al secondo argomento di oggi, Marco. Passiamo al secondo argomento di oggi che ha sempre a che fare con la Smart City, perché la settimana scorsa in occasione della Smart City Exhibition si è fatto molto parlare non soltanto da questi microfoni ma anche da tutti quanti quelli che sono i mezzi di comunicazione più attenti alle culture digitali, si è fatto parlare di Smart City. Ma che cos'è davvero una Smart City? Noi la settimana scorsa abbiamo raccontato di alcune soluzioni, di alcune idee per rendere più smart la città o semplicemente anche casa vostra. Ma è uscito un articolo in questi giorni scritto da Alberto Cottica, che è un attento osservatore di questi fenomeni. È uscito su Che Futuro ed ha proprio il titolo Che cosa vuol dire smart in Smart City. Noi proprio per parlare di questo argomento, a partire dallo spunto dato da questo articolo, abbiamo proprio l'autore dell'articolo, Alberto Cottica, a cui do il buongiorno. Buongiorno Alberto. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Allora Alberto, la domanda che tu ti poni è essenziale per tutti quanti i discorsi che si sono fatti la settimana scorsa a Bologna sullo Smart City. Smart cosa vuol dire? Davvero ci sono città intelligenti oppure ci sono diverse possibilità perché una città sia intelligente? Ma io sostengo che in quell'articolo propongo, non è che sia un grandissimo esperto di queste cose, però propongo l'idea che non solo ci siano diversi modi di essere smart, ma che ci siano due grandi strategie che sono alternative e se vuoi perfino contrapposte. La prima è basata su la tecnologie e interazione, ed è quella di cui si sente parlare più spesso, l'idea che ci sono sensori dappertutto, soprattutto a bordo dei nostri smartphone. Questi sensori raccolgono dati sull'ambiente circostante, li geolocalizzano e vanno a alimentare grandi basi dati che sanno dove siamo, sanno cosa c'è intorno a noi e ci informano sulle possibilità che abbiamo, il ristorante preferito che ha la promozione piuttosto che il negozio che vende la marca di abbigliamento che ci piace, che ha ricevuto un nuovo shipment, una nuova spedizione di materiale e noi siamo vicini. Il secondo tipo di smart cities invece è basata sulla costruzione di comunità e sulla risoluzione di problemi senza necessariamente passare per il mercato, per cui è piena di robe tipo la ciclofficina, dove tu invece di comprare una bicicletta ripari insieme a delle altre persone che ti aiutano la bicicletta vecchia, la rinnovi e la personalizzi. Se si tira al limite questa, questi due modi diversi di fare le cose, possiamo scoprire che un'attività che oggi facciamo in modo più o meno tradizionale, proviamo a immaginarcela resa smart, prende spesso delle pieghe completamente diverse secondo che tu scegli dalla prima strada o la seconda. Per esempio la scuola, se tu scegli la strada della tecnologia di interazione, vuol dire benissimo, allora domani gli allievi scolari andranno a scuola con i tablet. Invece se tu scegli la strada delle comunità e della risoluzione di problemi non market, gli scolari andranno a scuola usando libri Creative Commons, cioè che si scaricheranno dalla rete senza acquistare né tablet né nemmeno libri. E una cosa non esclude l'altra però. Beh, un pochino sì, perché di fatto queste tecnologie molto integrate tendono ad essere molto proprietarie e quindi in realtà non ti consentono di fare cose complicate. Un esempio tipico è l'automobile elettrica, mentre tu la bicicletta la puoi personalizzare finché ti pare, andare alla sigla officina, modificare l'automobile è illegale, devi rimatricolarle. Quindi di fatto questa cosa non è tanto casuale, è una cosa necessaria, perché quella lì è la monetizzazione, cioè l'azienda che ti vende la tecnologia fa denaro perché quella roba lì non si può modificare, è proprietaria e protetta. Quindi in qualche modo due idee di smart cities che però hanno anche dietro due idee di economia un po' diverse. Tu dicevi nel tuo articolo proprio che una delle prospettive che forse fanno paura anche ai nostri amministratori pubblici, ai nostri politici, è che l'idea di una smart city fatta sulle comunità, questa delle due opzioni, quella più a basso costo che tu proponi, in qualche modo fa abbassare il PIL, quello che noi utilizziamo come indicatore del benessere di un paese. Quindi in qualche modo questo forse è una cosa che spaventa la prospettiva politica. Non so se spaventa in particolare la prospettiva politica, diciamo che il PIL è un indicatore molto controverso, come sappiamo tutti. C'è stata qualche anno fa la commissione Stiglitz, Fitoussi, Sen, che insomma due premi Nobel e un francese, perché la roba era pagata dai francesi, quindi ci voleva il francese, peraltro bravissimo Fitoussi, è un genio assoluto, hanno fatto un lungo lavoro per provare a venire fuori con degli indicatori alternativi al PIL. Il PIL misura le transazioni, non misura il benessere, per cui una transazione anche negativa, anche le somme che si spese per riparare dei danni fatti, vengono contabilizzate come elementi positivi del PIL, quindi l'inquinamento fa salire il PIL, le malattie fanno salire il PIL, gli incidenti fanno salire il PIL, il terremoto fa salire il PIL moltissimo in prospettiva. Quindi in realtà quell'indicatore lì è un indicatore abbastanza baccato, gli amministratori pubblici avvertiti questo sanno bene. Piuttosto è che la smart city del primo tipo, quella centralizzata basata su tecnologia proprietaria, può contare sull'aiuto importante dei tecnologi delle grandi imprese, che sono in genere molto bravi, e loro però giocano quel gioco lì, non hanno voglia di giocare il gioco della decentralizzazione spinta, in cui fondamentalmente le persone vengono abilitate a risolversi i problemi da soli invece che risolverli comprando cose. Ecco Alberto, ma in questa idea di città basata su tante comunità che interagiscono tra di loro, qual è il ruolo dell'amministrazione pubblica? Cioè, se non è più quella che risolve i problemi in maniera diretta, che cosa fa? Quello che fa è fare parlare le comunità e abilitare le persone ad intervenire sui problemi. C'è anche un ruolo di sintesi molto importante, nel senso che le comunità vanno molto bene, però a un certo punto ci vuole qualcuno che tenga un po' la barra di dove va il territorio nel suo complesso, e questo è un ruolo che l'amministrazione pubblica può fare molto bene. Esiste un modo di fare politiche pubbliche il zero, in cui la risorsa importante che l'amministrazione gioca è la legittimazione. Cioè tu, nel momento in cui succedono delle cose che tu come amministratore pubblico pensi che siano delle cose che vanno nella direzione del bene del territorio, della comunità locale, tu puoi appoggiare il tuo peso, la tua autorevolezza, dicendo questa è una cosa buona, cerco di dargli spazio. Un buon esempio di questa cosa è un recentissimo provvedimento del Comune di Milano, che ha deciso che darà in concessione, mi pare, 100 edifici di proprietà del comune, che in questo momento non vengono utilizzati, per 30 anni, a associazioni che vogliono farci delle cose. Quindi questo è un elemento di legittimazione importantissimo, perché questa roba qua sono gli edifici non tanto utilizzati. Loro hanno capito che a Milano c'è una società civile molto tonica con un sacco di idee e dicono: va bene, allora proponeteci delle cose, noi poi scegliamo naturalmente quelle che ci piacciono di più e vi aiutiamo a fare queste cose. E queste cose scommetto che saranno cose che hanno a che fare molto con la coesione sociale, col benessere, con i servizi sociali che lo Stato fa molta sempre più fatica a fornire, mentre invece la società civile ancora ce la fa. Ecco Alberto, un'ultima battuta prima di salutarti, ed è questa: durante la Smart City Exhibition si è stata presentata anche una classifica delle città più smart d'Italia, in cui tra l'altro Bologna è risultata la prima. Qual è la tua opinione su una classifica di questo genere? Ma guarda, le classifiche sappiamo tutti che si fanno perché così abbiamo una specie di incentivo alla discussione. Naturalmente non ha molto senso riassumere l'intelligenza di qualunque cosa in uno scalare, cioè in un singolo numero. Cioè, se una città è meno trafficata ma un po' più inquinata, è più o meno smart di quell'altra, quindi cioè, dal punto di vista, non vanno prese troppo sul serio queste cose. Non credo che nessuno delle persone che hanno fatto quella classifica la prenda troppo sul serio. È una cosa che può essere utile per riflettere su quali sono le dimensioni, questo sì, dell'essere smart, che contribuiscono a quell'indice. Una cosa interessante che è uscita da quella classifica, mi dicevano al forum PA, è che Bologna risulta prima anche spostando un bel po' i pesi, cioè decidendo che un sottoindicatore è molto più importante di un altro, spostando un po' i pesi per vedere se si riesce a farla scendere, non scende comunque, che significa che Bologna è probabilmente una città veramente che ha qualche caratteristica di leadership sull'insieme delle dimensioni considerate, non soltanto su una o due. Continueremo comunque a stare attenti a vedere com'è anche l'evoluzione della Smart City qui a Bologna, visto che ci abitiamo e visto che da questi microfoni cerchiamo di raccontarla. Ma se volete continuare a sentire altre riflessioni da Alberto Cottica su Smart City e tutto quanto quello che gira intorno alla cultura digitale, potete andare sul suo blog, che è www.cottica.net. Noi lo ringraziamo per essere rimasto con noi. Grazie Alberto. Grazie Marco, grazie a voi. E allora si potrebbe davvero lanciare un sondaggio ai nostri ascoltatori. Tu di che Smart City sei? Sei quella del tablet o quella della ciclofficina? Chissà cosa verrebbe fuori. Mi piace come idea quella del sondaggio tra ciclofficina e tablet, è una bella scelta, perché non è facile dire se si preferisce l'uno o l'altro, a me piacciono tutti e due. Non è facile neanche mettere bene una cosa su un insieme piuttosto che in un altro. Magari sì, il guerriglia gardening di cui parlavamo prima sicuramente è da una parte, lo smartphone è sicuramente dall'altra, però ad esempio la bicicletta elettrica dove la metti? È difficile, il problema di categorizzazione da cui la filosofia si occupa da millenni e non è mai venuta a capo fino in fondo, quindi sicuramente anche per quanto riguarda la Smart City la discussione non può finire qui, ma deve continuare. Noi speriamo di continuare da questi microfoni a parlarne. Continuiamo da questi microfoni tutti i venerdì, ma continuiamo anche sui nostri social network, quindi su Twitter a @pensatech col CH, sulla pagina Facebook di Radio Città del Capo, e poi appunto tutti gli spunti, se vi siete persi qualcosa li trovate sul nostro sito rcdc.it, con anche il podcast della trasmissione. Sono le 9:28 minuti. Marco, a questo punto noi salutiamo. Grazie mille a tutti gli ascoltatori e grazie anche a te Damiana per essere rimasta qui con noi a parlarci di Smart City e Nativi Digitali quest'oggi. Ciao a tutti.